البلاد طردوا الأجداد صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو قالوا يا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا حتى نرجعها صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو قالوا ما قانون دولي يا قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا Buongiorno Palestina, 154esima trasmissione su Radio Wombat. In questa trasmissione, prima dell'intervallo estivo, vi vogliamo far ascoltare l'intervista allo storico Ilan Papé, rilasciata il 7 aprile del 2025 sul palco di Evolutionary Art Hackney, il centro artistico indipendente a Dalston, a Londra. L'intervista è stata realizzata da Aaron Bastani in un episodio speciale dal vivo. Vi proponiamo quindi il doppiaggio integrale in italiano dell'intervista prodotto da Fronte Zero e uscito da pochissimi giorni, in cui Ilan Papé affronta temi cruciali. Le origini della lobby pro-Israele nel Regno Unito. L'indottrinamento sistematico della società israeliana, il ruolo dell'Olocausto nella narrazione sionista, le atrocità commesse a Gaza e in Cisgiordania, la crisi interna dello Stato di Israele e la possibilità del suo collasso. Una riflessione storica e politica potente su sionismo, Palestina, colonialismo, genocidio, identità ebraica e resistenza globale. Per facilitare l'ascolto, ogni tema affrontato nell'intervista sarà preceduto dal titolo e intervallato da un breve spazio musicale. Buon ascolto. L'indottrinamento. Sì, ho scritto questa ricerca nel 1999, prevedendo che nel giro di 20 anni chiunque fosse entrato in giovane età nel sistema educativo israeliano del XXI secolo non avrebbe potuto che diplomarsi come una persona aderente al razzismo e al fanatismo, soprattutto per quanto riguarda i palestinesi e il mondo arabo. Sotto molti aspetti, l'indottrinamento è stato lo stesso fin dall'inizio del progetto sionista. Non si trattava solo di convincere il mondo della validità del progetto sionista, ma anche di convincere il popolo ebraico stesso. E poi c'era bisogno di un indottrinamento che spiegasse le difficoltà incontrate come primi colonizzatori e la lotta anticolonialista che affrontavano. Tutto questo ha contribuito alla formulazione di un indottrinamento che è diventato indottrinamento di Stato a partire dal 1948. Se qualcosa è cambiato, lo formulerei così. Credo che fino ai primi anni 90 ci sia stato un tentativo interessante di conciliare i valori universali all'interno del sistema educativo con gli ideali etnici e razzisti del sionismo, come se si potesse essere sionisti liberali, sionisti progressisti, sionisti democratici. L'intera nozione venduta al mondo era quella della democrazia ebraica, ovvero che si potesse essere contemporaneamente uno stato etnico e razzista, ma comunque una democrazia. Credo che ciò che è davvero cambiato nell'indottrinamento sia stato l'abbandono di questo tentativo di quadrare il cerchio. Si è avuta la sensazione che non fosse necessario, che comunque non funzionasse, perché Israele veniva criticata per ciò che faceva, non per il modo in cui si presentava. E oggi direi, negli ultimi 25 anni, c'è pochissima enfasi sui valori universali. C'è un'interpretazione molto chiara dell'ebraismo, che prima non c'era, come progetto ideologico, che si concentra principalmente sull'appropriazione della terra, l'esproprio dei palestinesi, forse persino sulla creazione di qualcosa che vada oltre la Grande Israele, cioè un Israele che includa la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. E pochissima preoccupazione per la reazione internazionale nei confronti di Israele. C'è persino un elemento di disprezzo verso la vita ebraica laica all'interno di Israele, vista come una sorta di segno di debolezza che potrebbe compromettere la capacità dello Stato e della società di raggiungere i propri obiettivi in futuro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta quien. Il sionismo come modello. È recente. E bisogna ricordare che l'idea stessa del progetto sionista era quella di risolvere un problema europeo, l'antisemitismo. Imponendo uno Stato ebraico europeo nel mondo arabo, nel cuore del mondo arabo, contro la volontà dei palestinesi. Quindi, fin dall'inizio, c'era un'alleanza che credeva in questo progetto e che era pienamente consapevole che l'unico modo per realizzarlo fosse la forza. E quell'alleanza all'inizio includeva anche la sinistra, includeva anche i liberali. Furono molto importanti, in diverse fasi, nel processo con cui questo progetto del sionismo divenne uno Stato ebraico nel 1948 e poi come uno Stato riconosciuto come parte del mondo occidentale. Fino all'inizio di questo secolo, direi, i membri più importanti di quell'alleanza non erano la destra, né tantomeno l'estrema destra o i leader populisti e fascisti. In realtà, negli anni 60 e 70, erano i partiti socialdemocratici, il Partito Democratico negli Stati Uniti, cioè il centro e il centro-sinistra, a essere membri molto importanti dell'alleanza che forniva a Israele legittimità morale, legittimità politica e assistenza materiale. Poi, quando il comportamento di Israele è diventato ancora più aggressivo e l'intero sistema politico israeliano si è spostato a destra nel 2000, anche i membri più favorevoli di quell'alleanza, che avevano garantito a Israele una sorta di immunità, hanno iniziato a essere un po' più critici. Ed è stato allora che è diventato molto chiaro che lo Stato di Israele si reggeva su due pilastri, un pilastro morale e un pilastro materiale. Il pilastro morale era già quasi completamente eroso all'inizio del XXI secolo. È in quel momento che l'alleanza si è trasformata da una compagine che includeva anche membri democratici, socialisti e socialdemocratici, si è passati a fare affidamento a quasi esclusivo su partiti populisti di estrema destra, partiti fascisti. I fondamentalisti cristiani sono diventati persino più importanti di quanto non fossero mai stati prima. Si trattava quindi di avere il sostegno, da un lato, di multinazionali molto ciniche e sinistre dell'industria militare o della sicurezza, e dall'altro lato, di movimenti ideologici o persone che credevano che la creazione dello Stato ebraico fosse la volontà di Dio, il compimento di una certa visione messianica, sia essa ebraica o cristiana. Gli altri elementi che un tempo sostenevano il progetto sionista e lo Stato di Israele sono diventati sempre meno assertivi all'interno di quell'alleanza e sempre meno convinti di essere dalla parte giusta della storia. Quindi sì, credo che oggi abbiamo a che fare con qualcosa di diverso. Forse vorrei solo aggiungere che c'è qualcosa di profondamente strutturale, storicamente parlando. Ovvero, comunque la si guardi, i movimenti più antisemiti e neofascisti d'Europa hanno qualcosa in comune con il sionismo. Entrambi i movimenti ideologici, per ragioni diverse, volevano vedere gli ebrei d'Europa in Palestina. Questo ha creato un'alleanza ideologica. A volte ci sono stati persino capitoli imbarazzanti nel rapporto tra la leadership del movimento sionista negli anni 20 e 30 e le forze fasciste in Europa e così via. Ma quello fu l'eccezione, non la regola. Tuttavia nasceva dalla stessa convergenza di interessi. L'idea che gli ebrei non appartenessero all'Europa, non dovessero stare in Europa, ma in uno Stato ebraico europeo nel cuore del mondo arabo. Quindi, in un certo senso, questa è la traiettoria della storia. Ora abbiamo la vera alleanza, i veri alleati di un progetto che fin dall'inizio era moralmente e politicamente invalido e che probabilmente non era nemmeno molto praticabile, a meno di non garantirgli un'enorme forza per crearlo e poi sostenerlo. يا طول عين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمان يا مان عين للهنا يا روح ما بعتي منك لكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بين لليمان يا مان عين للهنا يا روح إلا غزال للي دي جوي خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بين لليامان يامان عين للهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة منرجع زي زمان وتصيروا تيجوا عنا supporto dei laburisti ad Israele. Sì, è una storia molto interessante, di cui parlo anche nel mio libro. Il governo Attlee, salito al potere nel 1945, negli ultimi tre anni del mandato britannico in Palestina, dal 1945 al 1948, non era particolarmente favorevole al progetto sionista. È noto, per esempio, che ci furono alcune critiche, giustamente, al modo in cui Ernest Bevin, che era il ministro degli esteri, non distingueva sempre tra il progetto sionista e l'ebraismo. Allo stesso tempo, bisogna dire che quel governo Attlee non sosteneva neppure l'idea di una nazione palestinese indipendente. Avevano una loro visione, secondo cui in realtà sarebbe stata la Giordania il miglior alleato della Gran Bretagna nella regione. Poi, nel giro di tre o quattro anni dalla creazione dello Stato di Israele, fu l'ala sinistra del partito laburista, profondamente sionista, a portare il partito a essere molto più filo israeliano del partito conservatore negli anni 50 e 60. Perché accadde questo? Nel libro cerco di dare una risposta. Aveva a che fare con l'adesione alla propaganda israeliana, secondo cui Israele era un paradiso socialista. Importanti leader sindacali furono portati in visita negli anni 50 e 60 nei kibbutz e fu loro data l'idea che il kibbutz fosse l'essenza stessa di Israele, quando in realtà solo il 3% degli israeliani viveva nei kibbutz. Signorava completamente la condizione dei cittadini palestinesi di Israele, che vivevano sotto regime militare. Non si comprendeva affatto la questione nel suo insieme. Fu un mix di propaganda efficace, cecità morale e pensiero illusorio. L'idea che in Occidente esistesse una versione migliore del socialismo. E queste erano le persone più influenti del Partito Laburista negli anni 50 e 60. Le pochissime che si prendevano la briga di andare a vedere la situazione con i propri occhi, cioè non affidandosi a tour guidati israeliani, erano fortemente contrarie a quella linea politica. E come menziono nel mio libro, persone come George Brown, che fu ministro degli esteri, il quale in modo molto timido e moderato osò semplicemente menzionare l'esistenza dei palestinesi, vennero accusate di antisemitismo. Ci furono pressioni sul governo britannico perché lo licenziasse, solo per aver riconosciuto che esistevano anche i palestinesi come popolo. Non parlò nemmeno del diritto al ritorno o di altre questioni. È molto interessante, e tra l'altro questo non riguardava solo il Partito Laburista britannico. Anche i partiti socialdemocratici europei sentivano che lo Stato ebraico li assolveva dal dover fare i conti con l'antisemitismo durante la Seconda Guerra Mondiale, dal dover affrontare il razzismo. E davvero fu una combinazione tra il cadere in una campagna di advocacy molto efficace, da un lato, e il nutrire, probabilmente, atteggiamenti islamofobi e arabofobi più o meno nascosti nei confronti del mondo arabo. Perché bisogna ricordare che il Partito Laburista, ogni volta che è stato al governo in Gran Bretagna, non considerava il mondo arabo come un luogo che avesse diritto all'indipendenza e alla piena libertà. Era molto inserito nella logica della guerra fredda, proprio come i conservatori. Quindi sì, la sinistra ha molto su cui riflettere riguardo alla propria complicità nella creazione dello Stato di Israele, nel sostenerlo nei primi 10-15 anni, e nell'aver completamente ignorato il prezzo che i palestinesi hanno pagato per questo. Nye Bevan e Harold Wilson. Lui e Harold Wilson. Harold Wilson, in particolare, primo ministro per il Partito Laburista tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, davvero arrivarono a fare paragoni? Puoi immaginartelo? Forse sì, perché era un'epoca diversa. Paragonò Israele alla lotta dell'ANC in Sudafrica. Non paragonò il Sudafrica dell'apartheid a Israele, ci tengo a chiarirlo. Disse a Jim Callaghan, che era segretario di Stato, non cederemo su Israele e Sudafrica. E credo che il povero Callaghan pensasse che finalmente Wilson intendesse dire prendiamo una posizione dura contro l'apartheid in Israele e in Sudafrica. No, intendeva dire che Israele era come l'ANC. Wilson fu onorato con un bosco speciale piantato dal Fondo Nazionale Ebraico che esiste ancora oggi. Si chiama il Parco della Gran Bretagna. Ma in realtà è un gesto di gratitudine. Fu un dono a Harold Wilson per le sue posizioni filo-israeliane. E questo bosco è costruito sulle rovine di 5 o 6 villaggi palestinesi che furono distrutti nel 1948 e da cui la popolazione fu espulsa con la pulizia etnica. Alcuni cercarono di avvertire Wilson di questo, ma lui ignorò tutto, liquidandolo come semplice propaganda. Quindi sì, leader importanti, inclusi i veri socialisti, se consideriamo le loro politiche nazionali, continuarono a considerare Israele, più o meno fino al 1967, come un faro non solo di democrazia, ma anche di socialismo e socialdemocrazia. Ed è incredibile se si pensa a ciò che stava accadendo ai palestinesi in quel periodo. Ma è un fatto storico e non possiamo ignorarlo o metterlo da parte. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the, come to the world, come to the, come to the world, and baby let me show you things, cause time is running and we can't lose, baby come and dance, we gonna make it through, cause we got time, yes we got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just take me by the hand. Cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Place where the skin speaks the secret words in Spanish. Crescere nell'Israele sionista. Beh, sai, quando nasci in una società indottrinata, hai una vita normale, per così dire, all'interno di quell'indottrinamento. Da bambino non metti in discussione ciò che dice l'insegnante, ciò che dicono i tuoi genitori o ciò che trasmette la società. Quindi, durante la mia infanzia e adolescenza, non ero consapevole di nulla. Al di fuori di ciò che mi veniva trasmesso dalle istituzioni. Uscirne è stato un percorso, non un momento di epifania, non un singolo istante. È stato un cammino. Ha avuto molto a che fare con la mia decisione di intraprendere una carriera come storico professionista, perché amavo la storia. Ed era naturale voler ricercare la storia del proprio paese. To research your own country's history. Mi sembrava anche ragionevole cercare un momento particolarmente formativo di quella storia. Il 1948 aveva senso, era l'inizio delle cose, o almeno così pensavo. Quello è stato un primo segnale. Credo ci sia stato anche un altro elemento che mi ha indirizzato altrove. La decisione di portare avanti la mia carriera accademica fuori da Israele. Ci sono cose che puoi vedere solo da fuori, che non puoi vedere da dentro. E sono stato anche fortunato, perché per caso ho avuto un supervisore arabo che mi ha fatto conoscere i palestinesi su un piano di parità, in un modo che probabilmente non sarei riuscito facilmente a sperimentare in Israele. Tutto questo ha prodotto una ricchezza di conoscenze attraverso gli archivi, le letture, le conversazioni, che ha completamente smentito la narrativa con cui ero cresciuto. E poiché ero interessato alla storia fin da giovane, conoscevo molto bene la versione israeliana del 1948. Non tutti gli ebrei israeliani la conoscevano con quel livello di dettaglio, ma io sì. E man mano che diventavo più indipendente nel pensiero e nel lavoro accademico, tutti i principali argomenti di quella narrativa cominciavano a crollare, a sfaldarsi. E in realtà si rivelavano essere delle vere e proprie menzogne. E questo è difficile da accettare. Non lo accetti facilmente, anche perché tutte le azioni militari di Israele, e in particolare la guerra del 1948, vengono presentate in Israele come le più pure, le più nobili. Puoi avere dubbi sul 1956, sul 1967, ma nessuno mette in discussione il 1948. Quella era la lotta di Davide contro Golia, il miracolo di aver sconfitto 7 eserciti arabi. Poi iniziai a guardare i fatti. E quei 7 eserciti arabi non li vedi. E non vedi Davide, o meglio, vedi un Davide palestinese, ma non un Davide israeliano. E lentamente la mitologia, i miti, vengono smontati. Non con le polemiche, ma con la ricerca. Ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo per capire che si tratta di qualcosa che va persino oltre la messa in discussione della narrativa del 1948. Bisogna risalire alle origini stesse del sionismo. Direi quindi che questo percorso è avvenuto mentre lavoravo al dottorato, negli anni 80, fino alla metà degli anni 90. Mi ci sono voluti circa 10 anni per uscirne e attraversare il Rubicone. E da lì in poi non ho più guardato indietro. Sono diventato sicuro del fatto che stavo andando nella direzione giusta. Ho perso molti membri della famiglia. Alcuni non mi è dispiaciuto affatto perderli, anzi è stato un bene. La vita è diventata molto più semplice quando certi cugini o nipoti hanno deciso di non parlarmi più. Ho pensato, grazie a Dio, avrei dovuto farlo prima. Gli amici sono stati una delusione. Sì, ne ho persi molti, così come i colleghi e così via. Ci è voluto del tempo per trovare un nuovo gruppo di riferimento. Perché tutti abbiamo bisogno di un gruppo di riferimento. E ci è voluto tempo anche perché i miei amici palestinesi avessero piena fiducia in quello che stavo facendo. Ma una volta che è accaduto, ero di nuovo all'interno di un ambito sociale protettivo ed è stato bello. Però sì, perdi delle cose. Stai sfidando la tribù, stai mettendo in discussione le verità assolute della narrativa. Nella migliore delle ipotesi sei pazzo, nella peggiore un traditore. Que ande tu piel, Perché così pochi dissidenti? Vorrei avere una buona risposta per te. È una domanda davvero importante. Perché se pensi, per esempio, al 1950, dici, va bene, non potevano sapere molto, non c'era internet, non c'era la televisione, il mondo li sosteneva. Poi però pensi, dopo il 67 c'è la televisione, dopo il 1987 c'è internet. Il mondo comincia chiaramente a mandare messaggi e sicuramente dall'inizio del XXI secolo in poi è evidente che ciò che stanno facendo è criminale. Eppure sono così pochi quelli che lo accettano. Quindi sì, è una domanda giusta perché continua ancora oggi. È più facile capire come funzionava nelle prime fasi dello Stato. Ma perché è ancora così oggi? E bisogna dire che non si tratta di una dittatura dove la gente ha paura di parlare perché potrebbe essere incarcerata o torturata per aver sfidato il regime. Qui c'è un sostegno totale, incondizionato al regime. E in realtà ci vuole molto coraggio per sfidarlo. Credo che questo abbia innanzitutto a che fare con un indottrinamento e una manipolazione molto efficaci, in particolare attraverso la paura. C'è una sensazione reale perché esiste una resistenza palestinese che può essere violenta e può generare l'impressione di non essere al sicuro. Quindi si tende a rifugiarsi nella propria tribù, ma questo non basta a spiegare tutto. La manipolazione della paura va ben oltre. E la cosa peggiore, quella che secondo me funziona davvero, è l'abuso della memoria dell'Olocausto. Il meccanismo più importante che lo Stato di Israele utilizza attraverso tutti i suoi sistemi per assicurarsi che la popolazione non si allontani dalle percezioni di base sui palestinesi, sul conflitto, sulla regione, è proprio quello di inculcare l'idea che ogni deviazione da quella linea significhi aprire la strada a un secondo olocausto, che sarebbe un suicidio. Non c'è nessuna base fattuale, logica o morale per questo. Ma posso dirti, da prodotto del sistema educativo israeliano, che ricevi un overdose di manipolazione della memoria dell'Olocausto. Non puoi dimenticarlo e ne diventi dipendente. Io la vedo davvero come una sorta di dipendenza indotta. Come rendere le persone tossicodipendenti da questo tipo di paura? Il numero di israeliani che da bambini vanno in visita nei campi di sterminio, e va bene che ci vadano, è giusto, ma non è tanto il fatto che visitano Auschwitz, quanto come lo visitano. Tutte le visite sono collegate direttamente ai palestinesi e all'esercito. Cioè il messaggio è che se non sei leale verso il paese, ti ritroverai di nuovo in un nuovo Auschwitz. È incredibile, totalmente. Non c'è nulla di sensato, nulla di logico, ma non importa. Chiunque di voi, non so quanti, abbiano visitato il Museo dell'Olocausto in Israele, può vedere che il percorso espositivo si conclude con la creazione dello Stato di Israele. Quindi per tutto il tempo c'è questa costruzione narrativa. Credo che questo sia un primo elemento. Ma se si approfondisce, bisogna anche porsi un'altra domanda. Perché, per esempio, la seconda e la terza generazione di ebrei provenienti dal Nord Africa è oggi l'elemento più anti-arabo nello Stato di Israele? Cioè, persone che sono esse stesse arabe, oggi rappresentano uno dei gruppi più razzisti, non solo sostenitori del governo razzista, ma anche una minaccia per chiunque osi metterlo in discussione. E allora si deve tornare alla storia, a come lo Stato li ha de-arabizzati e a come questi hanno compreso che l'unico modo per essere accettati come ebrei europei era mostrare totale antagonismo verso la propria identità, cultura e lingua araba. E il modo migliore per dimostrare di non essere arabi era esibire odio verso gli arabi. the Arabs. So you have this kind of mixture of. Quindi hai questa sorta di ingegneria sociale programmata. Engineering that some is directed to. Alcune parti sono dirette all'intera popolazione, altre a settori specifici. Ma nel complesso questo è il prodotto dell'indottrinamento. Of indoctrination. Now why is it? Ora, perché è così importante dirlo? Perché se oggi ci fosse qui un membro dell'ambasciata israeliana o un accademico israeliano che sostiene Israele, direbbe nonsense. This is because non ha senso. Questa è una reazione oggettiva al fatto che il mondo arabo vuole distruggerci, che i palestinesi vogliono ucciderci, che l'Iran vuole annientarci. Ecco perché la tua domanda è così importante. Perché la narrativa israeliana non nega che questa sia la situazione, ma sostiene che non c'è alternativa. Ma naturalmente l'alternativa esiste. E ovviamente tutto questo non è causato dai palestinesi o dagli arabi, ma dalla natura stessa del progetto sionista. Se credi davvero che l'unica soluzione al problema ebraico sia creare uno Stato ebraico sulla Palestina storica, con il minor numero possibile di palestinesi, allora dovrai ricorrere continuamente alla violenza per giustificarlo. E dovrai essere pronto a esercitare quella violenza per generazioni, perché i palestinesi non rinunceranno. Il mondo arabo può cambiare, ma loro no. E quindi è questo il tipo di... Non so, forse Sparta nell'antichità era simile, o la Prussia in certi momenti della storia. Ma si tratta davvero di un tipo di DNA in cui si finisce per credere che non ci sia altra via d'uscita se non mostrare questo tipo di aggressività e di animosità. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Costruire consenso con la paura. Non lo so con certezza, perché è talmente centrale in tutta questa questione che forse avrebbero trovato altri metodi per ottenere lo stesso risultato, ma avrebbero comunque reclutato l'antisemitismo a loro vantaggio. You know, It's very important to understand that. È molto importante capire che, direi, fin dagli anni 30, prima le strutture militari sioniste, poi dopo il 1948 l'esercito israeliano, lavoravano duramente per convincere i soldati, e penso soprattutto al 1948, quando attaccavano il nemico, i palestinesi, non stavano attaccando un esercito, stavano attaccando un villaggio con tutta la popolazione dentro. Alcuni membri di quelle truppe erano essi stessi sopravvissuti all'olocausto. Come li convinci che la cosa giusta da fare è entrare a Deir Yassin o in qualsiasi altro villaggio, massacrare bambini, neonati, donne e uomini e credere che si tratti di autodifesa, che sia necessario? Gli ufficiali politici di quelle unità, come sappiamo, alimentavano l'entusiasmo dei soldati facendo in modo che associassero il villaggio palestinese al nazismo, il movimento nazionale palestinese al nazismo. Posso darti due ottimi esempi di come questa manipolazione funzioni in Israele in modo estremamente efficace. Praticamente ogni casa israeliana possiede qualcosa che si chiama Enciclopedia dell'Olocausto. Il primo e più ampio articolo è su Hitler, il che ha senso. Il secondo più lungo è su Haj Amin al-Husseini, il leader palestinese degli anni 40. Il messaggio è chiarissimo. Oppure forse qualcuno ricorda Menachem Begin nel 1982, quando paragonò Yasser Arafat chiuso in un bunker a Beirut a Hitler nel bunker di Berlino. Ma questi sono solo due esempi. Era necessario disumanizzare l'indigeno, il nativo, per convincere le proprie truppe e il proprio popolo che genocidio, pulizia etnica e così via fossero giustificabili. Non si tratta di un caso eccezionale nella storia, Aaron. Non è un fatto eccezionale convincere rifugiati europei a massacrare i nativi americani o gli aborigeni australiani. Anche lì è stato necessario disumanizzare la popolazione indigena, sostenere che non erano davvero esseri umani, che erano selvaggi e che quindi si poteva fare loro qualsiasi cosa, anche ai bambini e così via. Quindi non è qualcosa di unico, è una sua variante. Nel caso di Israele, però, non bastava disumanizzare, come farebbe un qualunque movimento coloniale di insediamento per giustificare i genocidi, rimozioni o l'imposizione dell'apartheid. Bisognava aggiungere qualcos'altro per essere sicuri, perché c'era il timore che magari gli ebrei rifugiati dall'Europa avrebbero trovato troppo difficile, troppo pesante quello che si chiedeva loro di fare per costruire uno Stato. Perché era chiarissimo che non si trattava di una terra senza popolo in attesa di un popolo senza terra. Era una terra piena di gente che stava costruendo la propria vita, il proprio futuro. E l'unico modo in cui la cosa veniva percepita era come un gioco a somma zero: o ci sono loro o ci siamo noi. E per cancellarli serviva questa forma di disumanizzazione. Ma nel caso dell'educazione israeliana, la disumanizzazione doveva andare di pari passo con la nazificazione dei palestinesi. Abbiamo avuto questo esempio assurdo quando Benjamin Netanyahu, credo fosse ancora con Theresa May, cercò di convincerla che fu il Mufti a dare a Hitler l'idea dell'Olocausto e cose del genere. Va bene, perfino per gli israeliani quello fu troppo, ma comunque. Viene tutto dallo stesso meccanismo del legittimare completamente una lotta anticolonialista che è assolutamente legittima contro un progetto di colonialismo di insediamento. E come si fa a delegittimarla? Dicendo che è una continuazione della vecchia tradizione antisemita europea e della sua parte peggiore. Come provano a silenziarci qui, in Gran Bretagna, quando sosteniamo i palestinesi? ci accusano di negare l'olocausto. È la famosa definizione Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. È lo stesso schema. Si crede di poter usare la memoria di quell'evento orribile accaduto in Europa per giustificare il comportamento verso i palestinesi e per silenziare chiunque li sostenga. Il fatto che tutti noi qui lo vediamo così chiaramente non sorprende, ma il fatto che i nostri politici non lo vedano, o lo vedano e lo ignorino, è qualcosa che va oltre ogni comprensione. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين. Sorpreso dalla tenuta del sistema? Ti dirò cosa mi ha sorpreso e cosa no. Purtroppo, né l'operazione di Hamas mi ha sorpreso, viste tutte le condizioni nella striscia di Gaza dal 2007 e ciò che stava accadendo in West Bank e a Gaza a partire dal 2020, soprattutto da novembre 2022, né mi ha sorpreso la reazione israeliana. Purtroppo no. Did not surprise me. Avevo già scritto molto prima che la pulizia etnica come metodo per eliminare i nativi non stava funzionando per Israele. E so dalla storia che quando la pulizia etnica non funziona, allora il progetto coloniale di insediamento ricorre al genocidio. L'ho previsto, purtroppo. Non volevo dirlo pubblicamente, perché se ne parli troppo rischi di farlo accadere. Ma no, non sono rimasto sorpreso. Ciò che mi ha davvero sorpreso è stata la reazione dell'Occidente, e in particolare dell'Europa, dell'Europa occidentale. Questo non l'avrei potuto prevedere. Non avrei potuto immaginare che un genocidio di tale portata, con tale visibilità, con quel grado di crudeltà, non avrebbe smosso nemmeno per un attimo i membri più importanti delle élite politiche occidentali. Non una riflessione, non una messa in discussione del loro sostegno a Israele, della loro responsabilità nella sofferenza dei palestinesi. Il ventaglio di reazioni che abbiamo visto, che va dall'indifferenza totale al pieno appoggio a Israele, è talmente stretto e rivela una tale codardia morale da parte dei politici, perché io sono sicuro che loro sanno cosa sta accadendo. Non è che non lo sanno, lo sanno benissimo. E conoscendone alcuni, non necessariamente di persona, ma conoscendo le loro posizioni, ciò che fanno, è molto chiaro che prendono la decisione consapevole di non intervenire. Perché temono per la propria carriera politica, non perché siano persone particolarmente malvagie che vogliono vedere accadere un genocidio, ma perché sono il peggiore tipo di persone, come ci insegnano molti filosofi. Il male non esiste solo in chi lo commette, ma anche in chi non fa nulla per impedirlo. E qui stiamo parlando di persone che potrebbero fare qualcosa per fermarlo. È questo che mi ha sorpreso. Ma ciò che mi ha sorpreso ancora di più, e credo che dovremmo parlarne, è che se riesci, e a volte ci riesco, a parlare con intellettuali, accademici, politici in questo paese, in Europa e negli Stati Uniti, che ancora sostengono Israele. Parliamo di persone colte, informate, molto articolate. E su ogni altro argomento del mondo rispetteresti la loro conoscenza. Impareresti qualcosa da loro. When it comes to Israel, ma quando si tratta di Israele, alcuni dei politici, giornalisti o accademici più sofisticati e brillanti diventano degli imbecilli che ripetono a pappagallo la linea israeliana, senza alcuna critica, senza nessuna delle facoltà intellettuali che mettono in campo su qualsiasi altro tema. Questo è qualcosa che va analizzato. Ho già scritto troppi libri, altrimenti ne avrei scritto uno su questo. Ma davvero, è qualcosa su cui scrivere un libro. Io lo chiamo stupidità morale. È incredibile. I tedeschi sono i peggiori. Non so se qualcuno di voi ha mai parlato con intellettuali tedeschi su perché ancora oggi sostengano Israele. È imbarazzante. Ed è ancora più imbarazzante in tedesco. Capisco il tedesco. E in quella lingua suona persino peggio. Ma non è che qui sia meglio in molti sensi. E questo è qualcosa che va analizzato. Cioè, sei disposto a degradarti come pensatore, come ricercatore, come giornalista, come politico, pur di soddisfare cosa? Pur di soddisfare uno Stato che commette quotidianamente un genocidio. E sei disposto persino a distruggere l'intero sistema giuridico internazionale per questo, e così via. Forse 500 pagine sul lobbying sionista non bastano per spiegarlo. Perché è ancora così efficace, nonostante il genocidio? Deve avere molto a che fare con l'islamofobia, ne sono certo. Ha sicuramente a che fare con il fatto che, a causa del sionismo, l'Europa non ha mai fatto davvero i conti con il razzismo. Perché se ignori il razzismo contro gli ebrei dicendo non dobbiamo occuparcene, abbiamo creato un bellissimo stato per loro nel mondo arabo, allora il razzismo resta parte integrante della società europea. E Israele ricorda all'Europa che il razzismo non è affatto superato nelle sue leggi, nella sua costituzione, nel suo sistema educativo e così via. Questa è sicuramente parte del problema, ma esiste ancora questa paura tra i politici e forse, e concluderei dicendo questo, forse dice qualcosa sulla natura stessa della politica al giorno d'oggi. Non voglio generalizzare, ma lo farò. La maggior parte dei politici in Occidente è centrata su se stessa per quanto riguarda la base elettorale. La considerano semplicemente come una base che può garantire la rielezione, non come un gruppo di persone con delle preoccupazioni a cui devono rispondere. Certo, ci sono delle eccezioni, ma in generale non ricordo un periodo nella storia moderna in cui i politici fossero di un livello così basso. È diventato uno sbocco professionale in tempi di disoccupazione, è davvero incredibile. Il divario tra la retorica, in Inghilterra in particolare, perché parlano bene, e ciò che fanno, è realmente enorme. Forse anche questo fa parte del problema. Ma mi dà anche un po' di speranza, perché credo che alla fine le società umane si stuferanno di questo tipo di politica. È anche un piccolo passo, un minuscolo avanzamento verso una politica migliore, basata sulla giustizia e sui valori morali. È già una piccola vittoria per i palestinesi. Più giuste saranno le nostre società, più morali saranno le nostre politiche, e più i nostri governi comprenderanno il loro ruolo e la loro responsabilità nel difendere i palestinesi, e andranno oltre ciò che stanno facendo ora per assicurarsi che Israele non possa portare a termine l'eliminazione dei palestinesi. Para todo el mundo. Capitolo finale? Sì, penso che sia importante dirlo, con una precisazione. I capitoli bui della storia umana, dal punto di vista politico, economico, umano, hanno come fase peggiore proprio la fine di quel capitolo. La fine è peggio di tutto il resto. Così fu la fine dell'apartheid in Sudafrica. Così fu la fine di molti altri regimi canaglia nella storia. Gli ultimi anni di quei regimi furono i peggiori, in termini di ciò che facevano pur di sopravvivere, perdendo ogni freno inibitore. E credo che sia esattamente quello che stiamo vedendo ora, ma è questo che intendo. Non siamo all'inizio di un nuovo capitolo. Siamo alla fine di un capitolo che probabilmente è cominciato con la Nakba del 1948, se non prima. Un capitolo in cui è stata concessa immunità internazionale a un progetto di espropriazione e di eliminazione di un piccolo popolo, i palestinesi, perché quel progetto serviva a interessi diversi, a volte anche in conflitto tra loro, di un'alleanza globale composta da evangelici cristiani, ideologi, neoconservatori e, come abbiamo detto prima, anche socialisti e liberali. Quel capitolo sta arrivando alla fine e possiamo già vedere alcuni segnali. Prima di spiegare quali siano questi segnali, voglio però ripetere un avvertimento con cui ho già iniziato. Non è una buona notizia da portare oggi alla gente di Gaza. Non è quello che vogliono sentirsi dire. Questo capitolo sta per finire, ma i prossimi 2 o 3 anni saranno i peggiori. Hanno tutto il diritto di pretendere da noi che proviamo a fermare ora questo capitolo e non che aspettiamo che si compia. Ma se guardo le cose da una prospettiva più ampia, dico che è lì che ci troviamo. E questo non contraddice affatto il fatto che devo essere molto onesto con le persone sul terreno, dicendo loro che, almeno per quanto riesco a vedere, non vedo ancora dinamiche di cambiamento in grado di fermare il massacro israeliano, né dall'interno né dall'esterno. Devo essere molto onesto su questo. Ma vedo i segnali della fine di questo capitolo. Per esempio, non ricordo un altro momento nella storia in cui milioni e milioni di persone, innanzitutto, sapessero cosa sta succedendo in Palestina e sostenessero i palestinesi. Non ci siamo mai trovati in una situazione del genere. E chi conosce la storia del movimento di solidarietà con la Palestina lo sa bene. Questo è un momento unico. that we don't know. Non sappiamo ancora come sfruttarlo appieno, come farne buon uso. Maybe that's something to discuss as Forse è qualcosa di cui dovremmo discutere, ma il sostegno ai palestinesi è enorme. There is no huge support. Non c'è un grande sostegno per i palestinesi tra le elite politiche, questo è vero, ma nella società civile globale non c'è mai stata un'unità così forte a favore del popolo palestinese. Questa è una forza con cui fare i conti. Purtroppo forze come questa difficilmente arrivano a essere il potere costituito. Non diventano il potere dall'alto e in genere non sono nemmeno interessate a diventare le elite politiche. Ma dovrebbero esserlo, non solo per Gaza, non solo per la Palestina, ma anche per affrontare il riscaldamento globale, per combattere la povertà, per costruire un mondo in cui chi cerca rifugio, chi emigra, non sia visto come un problema, ma come una risorsa. Per tutto questo abbiamo bisogno che le buone energie della società civile diventino i responsabili delle politiche e non solo le persone che i politici ignorano o sfruttano per farsi eleggere. Questo è un primo indicatore, la solidarietà enorme, che si traduce anche in azioni piccole, che spesso pensiamo non contino, ma che sommate avranno un impatto enorme. I movimenti studenteschi che costringono le loro università a disinvestire entreranno nella storia come parte di un movimento che alla fine trasformerà il boicottaggio in sanzioni. Lo stesso accadde con il Sudafrica. Ogni azione del movimento BDS è importante, non è sprecata. Ci vuole troppo tempo. Non è ancora abbastanza efficace nel suo insieme, ma lo sarà, non ci sono dubbi. Un altro segnale, non meno importante, è il fatto che le nuove generazioni di ebrei in tutto il mondo stanno smettendo di identificarsi con Israele e con il sionismo. Non associano più l'identità ebraica a Israele. Nemmeno gli ebrei laici, nemmeno quelli laici in America, non solo, sentono che parte del loro compito nella ridefinizione di cosa significhi essere ebrei in Occidente, è proprio quello di partecipare al movimento di solidarietà con i palestinesi. E questo sarà un elemento importante in futuro, senza contare le dinamiche interne a Israele. C'è un'implosione sociale nella società israeliana. Gli israeliani laici e quelli più religiosi o tradizionalisti non hanno più nulla in comune. Non trovano più il collante che in passato era rappresentato dal nemico esterno, che oggi non sembra più sufficiente a creare coesione sociale. Il numero di israeliani che emigrano è enorme. Non conosciamo le cifre esatte, ma è enorme. E include l'elite economica del paese. L'esercito, nonostante tutto ciò che sta facendo, non gode della fiducia della società. La gente non è cieca. Dopo tutto ciò che Israele ha fatto nell'ultimo anno e mezzo, ha affrontato due milizie senza aerei, senza carri armati, senza artiglieria, e a malapena è riuscito a sconfiggerle. Le cose possono cambiare. Quindi l'invincibilità dell'esercito israeliano è messa in discussione, e anche questo fa parte della fine del capitolo. La sostenibilità economica non è più quella di una volta. La gente non se lo ricorda. Ma Biden ha dato a Israele 20 miliardi di dollari, miliardi. Li hanno sprecati tutti, non è rimasto nulla. E nessuno vuole dire nulla di positivo su Trump, nemmeno io, ma credo che lui guardi al conto corrente americano, ai conti reali. E se gli dicessero che bisogna tirare fuori altri 40 miliardi dal conto corrente degli Stati Uniti, non sono sicuro che lo farebbe. E di nuovo, è l'ultima cosa positiva che dico su di lui, non preoccupatevi. Ma avrebbe un effetto, avrà un effetto. Quindi questi sono processi molto importanti. Ora, per quanto riguarda ciò che accade dal lato palestinese, è difficile da decifrare e analizzare in questo contesto. Qual è il loro ruolo nel portare alla fine del capitolo? Finora ciò che fanno, ed è assolutamente comprensibile, è resistere. Non sparire davanti a una macchina gigantesca che vuole distruggerli. Resistono e restano. E questo fatto di per sé contribuisce alla fine del capitolo, ma non basta. È chiaro che c'è bisogno di un vero movimento nazionale, una vera organizzazione, una vera rappresentanza. È molto interessante. I giovani palestinesi, in questo paese, in Cisgiordania, Gaza, nel mondo, sono un capitale umano straordinario. In termini di istruzione, creatività, impegno, attivismo e così via. Ma evitano, comprensibilmente, il ruolo della leadership politica. Non sono interessati alla leadership politica e questo è un problema, perché la storia non conosce il vuoto. Se non sarete voi i leader politici, lo sarà qualcun altro. Qualcuno che adesso non nominerò. Adesso sembra un po' Harry Potter. Qualcuno che non può essere nominato sarebbe vostro leader e siederà a Ramallah. Questo è molto importante. Anche questo è fondamentale. Quindi non siamo semplicemente spettatori alla fine di questo capitolo. Ognuno di noi, a modo suo, può contribuire ad accelerarne la fine. Ma sono convinto che non sarà una questione di se questo capitolo finirà, ma di quando finirà e come finirà. E queste sono domande, naturalmente, a cui non è facile rispondere. I'm just gonna finish. صوت صغير إن كان نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد fare ciascuno di noi. Sapete, sono sicuro che tra il pubblico ci siano diversi attivisti, anche se non riesco a vedere nessuno a causa delle luci, quindi forse non ce n'è nemmeno uno. Non che si possa capire chi è un attivista e chi no. Quindi non mi trovo mai nella posizione di dire agli attivisti cosa dovrebbero fare, perché l'attivismo per la Palestina in questo paese è incredibile, davvero. Le persone stanno facendo cose straordinarie, davvero. Non credo ci sia un solo palestinese che abbia alcuna critica da muovere al modo in cui il movimento di solidarietà in Gran Bretagna si è mobilitato dal 7 ottobre in poi, schierandosi al fianco dei palestinesi. Quindi non ho parole sagge da offrire agli attivisti su cosa dovremmo fare. Penso che si possano identificare aree in cui si potrebbe essere più efficaci e lavorarci. Con la speranza che questo possa portare a una fine più rapida di questo periodo orribile che stiamo vivendo. Perché, e molti di voi lo sapranno, anche da un punto di vista psicologico, il fatto che la popolazione di Gaza, che pensava che fosse in arrivo un cessate il fuoco, che ci fosse una sorta di tregua nel massacro, sia solo ora imparando che tutto sta continuando. Immaginate di trovarvi in un simile inferno. E questo può davvero togliere forza. Può far sentire impotenti chiunque si chieda cosa posso fare per fermarlo. E non è facile trovare parole sagge su come agire. Tuttavia, penso che le parole siano importanti. Il linguaggio è importante. E credo che siamo un po' troppo indulgenti con i nostri media. Non parlo dei media alternativi, ma di quelli mainstream. Se la cavano troppo facilmente con il linguaggio falso che usano. Con la copertura irresponsabile degli eventi e con la totale o intenzionale ignoranza quando si tratta della Palestina. Credo che bisognerebbe esercitare maggiore pressione su quei media. Manifestare davanti a loro, non lo so, qualsiasi cosa l'attivismo possa fare. Penso che sia molto importante colpire duramente quel settore dell'establishment che si vanta di essere professionale e obiettivo, soprattutto la BBC, e che in realtà, consapevolmente o inconsapevolmente, agisce come scudo di immunità che permette al genocidio di continuare. Dovremmo fare cose di questo tipo. Perfino l'UNICEF, quando pubblica, non so se l'avete visto, una sua dichiarazione sulla BBC, menziona ogni sorta di luoghi verso cui si dovrebbe contribuire affinché l'UNICEF possa lavorare, ma non menziona la Palestina, come se i bambini in Palestina non avessero alcun problema. È un modo dell'UNICEF per tenersi buona la BBC. È incredibile, sono incredibili le cose che stanno accadendo. Anche nelle università. Continuiamo a pensare che l'unica cosa che si possa fare all'università siano manifestazioni e attivismo. Azioni dirette per sfidare la direzione. Ma non è meno importante come insegniamo la Palestina nelle università. Nella maggior parte delle università e anche nelle scuole superiori, insegniamo ancora la questione dal punto di vista delle scienze politiche, delle relazioni internazionali, qualcosa che ha a che fare con un conflitto tra due parti, da gestire, da riconciliare. Ma la Palestina dovrebbe essere insegnata esclusivamente nel quadro del colonialismo, dell'anticolonialismo e del genocidio. È da lì che gli studenti, da un punto di vista professionale, dovrebbero iniziare a comprendere cos'è la questione palestinese. E questo non sta accadendo. La maggior parte delle storie di Israele viene ancora insegnata all'interno dei dipartimenti di studi ebraici. Ma non è lì che si dovrebbe studiare Israele. Israele si dovrebbe studiare nei programmi che trattano il colonialismo di insediamento, il colonialismo, l'apartheid, la pulizia etnica. Quello è il contesto giusto. Ora, queste cose sembrano richiedere più tempo, ma in realtà non è così. Se colpisci direttamente il luogo in cui viene prodotta e trasmessa la conoscenza, puoi ottenere effetti a catena anche più efficaci. Ma per il resto, penso che tutti stiamo facendo il possibile. Ed è molto frustrante, lo so. Infine, dirò una cosa su cui sono davvero positivo. Può sembrare bizzarra, Ma l'unica cosa che spaventa davvero molti israeliani è se Israele venisse espulso dalla UEFA. Seriously. Sul serio. Seriously. Sul serio. I don't think people non credo che la gente capisca davvero cosa significhi. Davvero non lo credo. Pensate al cricket e al rugby in Sudafrica. Sport is very important. Lo sport è molto importante ed è qualcosa che raggiunge ogni strato della società, ogni ambito della vita, ed è un messaggio molto importante. Vorrei che la nazionale inglese avesse imparato da quella norvegese. La nazionale norvegese ha finito per giocare contro Israele, è vero. Ma almeno uno dopo l'altro, i giocatori, l'allenatore, persino il presidente della federazione calcistica norvegese, hanno dichiarato pubblicamente: giochiamo con il cuore pesante. Questo è l'inizio. Non devono fare tutto in una volta, ma dire: lo facciamo con il cuore pesante, sapendo cosa sta facendo Israele. Avremmo preferito che la UEFA non permettesse a questa partita di svolgersi. Ecco, questo è un passo nella giusta direzione. Vorrei che accadesse anche qui, perché i calciatori contano, possono avere un impatto anche loro. Quindi dobbiamo iniziare a pensare sempre di più fuori dagli schemi. E dobbiamo lavorare con urgenza, non solo per ciò che accade oggi a Gaza, ma anche per ciò che Israele sta pianificando per la Cisgiordania e per i cittadini palestinesi di Israele. Non è finita. Sotto questo aspetto non siamo alla fine del progetto del sionismo messianico, che io chiamo il progetto dello Stato di Giudea. Abbiamo un'elite politica messianica in Israele che crede davvero di trovarsi in un momento storico in cui può realizzare tutto ciò che le elite precedenti non sono riuscite a fare, ovvero ricostruire l'antico regno di Israele, come lo immaginano dalla Bibbia, che probabilmente si estende non solo sulla Palestina storica, ma anche oltre. Ecco perché stanno pensando a insediamenti nel sud della Siria, nel sud del Libano. Credono davvero che questo sia un momento storico. E Trump ha avuto un ruolo in questa visione messianica. Non accadrà. Ma nel tentativo di realizzarla, ci saranno ancora spargimenti di sangue e carneficine. E qualunque modo abbiamo per allertare persone che hanno potere affinché lo fermino, è il benvenuto. E infine, bisogna coinvolgere il sud globale. Bisogna coinvolgere il mondo musulmano. Bisogna coinvolgere la Malesia e l'Indonesia. Potenze economiche come la Malesia e l'Indonesia, con grande influenza sulla politica mondiale, possono fare molto di più di quanto stiano facendo ora. E speriamo che a un'alleanza globale che sostiene quelle azioni si contrapponga un'alleanza globale. Se questa deve essere la mia ultima frase, rendiamo onore al governo della Colombia per aver interrotto le relazioni con Israele. Le prime sanzioni, non boicottaggio, non disinvestimento, ma sanzioni, sono state imposte dallo Stato colombiano. E spero che altri seguiranno il suo esempio. Now, so good.